Caro Stegosauro, come avrei voluto vederti quando il Tirannosauro Rex ti attaccava e tu combattevi. Certe volte morivi, ma certe volte lo uccidevi. Avrei voluto toccare i tuoi pungiglioni e le quattro punte sulla coda. Quando mangiavi l'erba mi avresti fatto certo ridere. Non volevo che ci fosse questa estinzione. Così tutti noi del mondo vi avremmo visto, ma siete tutti morti. Io sono triste dentro il mio cuore perché avrei voluto giocare con te, ma sei morto. Se tu fossi qui, potrei salire sulla tua schiena e saresti venuto a scuola con me. Avremmo potuto giocare a calcio insieme alla mia squadra. Poi avremmo studiato insieme, giocato alla PlayStation e saremmo potuti andare all'oratorio insieme per fare catechismo. Io sto bene, ma sapere che tu sei morto e sei in ossa nei musei mi fa diventare triste. Mia madre è buona, ma certe volte la faccio arrabbiare, certe volte litighiamo e certe volte no. Tua madre quando eri piccolo si arrabbiava. Io ho paura di morire, tu... Quando c'era l'estinzione, avevi paura di morire. Io vorrei diventare forte come te, avere la corazza sulla schiena e una coda con su le quattro spine. Ciao, adesso ti devo salutare, ma ti voglio tanto bene. Ti tengo sempre nella mia mente e ti tengo come un vero amico. Ciao, da Paolo.